gruppo di lavoro è partito per la costruzione e la redazione della Carta per la Logistica Etica il 9 di novembre, più di 12 incontri, più di 45 stakeholder coinvolti, la struttura della Carta così come l'abbiamo costruita vede 8 capitoli. Quali sono i temi principali? Partiamo dalla premessa: la città metropolitana si impegna ad approfondire con le istituzioni competenti le tematiche relative alla logistica, auspicando un intervento legislativo in materia. Secondo punto che abbiamo voluto appunto inserire in premessa, che quindi attraversa tutti i capitoli tematici della Carta, è il tema dei principi della diversity and inclusion, come dire, che assumiamo come fondamentali per la costruzione di una cultura aziendale del lavoro inclusiva, basata sulla valorizzazione delle differenze. Naturalmente c'è il tema sicurezza del lavoro, cito in particolare il tema del rispetto dei minimi tabellari previsti dal contratto collettivo di lavoro, così come il tema della gestione della sicurezza del lavoro quando ci troviamo, è una situazione tipica nel settore della logistica, in presenza di diversi appaltatori in un unico sito. Altro capitolo è quello relativo alla qualità del lavoro e la catena degli appalti. Non c'è dubbio che un obiettivo condiviso è quello di ridurre la filiera e quindi promuovere il più possibile la filiera corta negli appalti e nei subappalti, perché questo è un elemento di garanzia rispetto a sicurezza e qualità del lavoro. Altro tema fondamentale è quello della tipologia contrattuale applicata, e quindi affermiamo in modo forte il principio dell'applicazione del contratto a tempo indeterminato come forma comune di rapporto di lavoro, nell'ottica e con la strategia e con l'obiettivo del lavoro stabile e della continuità occupazionale, così come abbiamo condiviso di contrastare l'abuso degli istituti del distacco e della somministrazione di lavoro quando eludano norme inderogabili di legge o di contratto collettivo. La flessibilità è un tema importante e bisogna sapere conciliare flessibilità ed esigenze produttive insieme alla qualità e la sicurezza e la salute sul lavoro. Continuiamo su qualità del lavoro e catena degli appalti, e anche qui cito in particolare il tema delle clausole sociali di salvaguardia relative alla continuità occupazionale, così come delle clausole sociali di protezione per l'inserimento di persone fragili, anche attraverso gli strumenti che noi come sistema territoriale mettiamo a disposizione, quale Insieme per il Lavoro. Altro punto fondamentale è il tema della formazione preventiva e continua, sia in ingresso all'interno delle imprese, ma anche una formazione continua, anche per sostenere questo processo che ci sta portando verso una logistica, chiamiamola 4.0, in cui il tema dell'innovazione tecnologica e in generale dell'innovazione anche volta alla sostenibilità ambientale richiede nuove figure e nuovi profili professionali. Altro punto fondamentale è quello della coesione sociale e dell'integrazione con il territorio. Abbiamo condiviso di promuovere lo sviluppo di servizi e strumenti innovativi di lavoro e di welfare nei siti logistici metropolitani, così come potenziare l'integrazione promuovendo l'effettiva esigibilità dei diritti e dei doveri dei lavoratori per sviluppare relazioni con i servizi sociali territoriali che sono presenti e che sono la nostra rete di riferimento sul territorio. C'è un tema relativo ai lavoratori stranieri, che è, come dire, una popolazione molto forte all'interno del settore della logistica, e quindi abbiamo condiviso di sviluppare progettualità specifiche per il coinvolgimento e l'integrazione dei lavoratori stranieri. Ultimo tema è la questione abitativa, su cui c'è l'impegno come istituzioni di intervenire in modo attivo e deciso. Altro fronte è l'innovazione, la digitalizzazione e la sostenibilità ambientale. E anche qui, come dire, l'obiettivo generale è accompagnare la nuova logistica e quindi accompagnare la trasformazione e l'innovazione delle nostre imprese verso la transizione digitale e verso la transizione ambientale. E poi c'è il tema dei nuovi investimenti in logistica. La Carta per la Logistica Etica rappresenta un contributo rilevante per declinare i principi metropolitani per lo sviluppo della nuova logistica. Le nuove localizzazioni abbiamo voluto indicare che saranno definite in coerenza con gli strumenti di pianificazione e con i principi e i temi di sostenibilità ambientale, l'accessibilità degli insediamenti, ma anche garantire sostenibilità sociale, innovazione e fondamentale l'utilizzo del ferro. In questo capitolo in particolare la Carta evidenzia il ruolo importante di Interporto, con la scelta che è stata fatta dal Comune di Bologna di mantenere, confermare, potenziare la presenza all'interno della compagine societaria, e quindi Interporto può rappresentare anche un punto di riferimento per la costruzione di progettazione di azioni comuni anche a favore degli altri hub logistici presenti sul territorio. Questa Carta funziona e trova gambe se ha una struttura solida di attuazione e monitoraggio. Quindi tutti i soggetti firmatari, ma non solo, anche i comuni che avranno e che hanno sul loro territorio i principali hub logistici partecipano ai lavori della struttura di monitoraggio, a un comitato metropolitano per la logistica etica, e il comitato è appunto il luogo di confronto e di attuazione e dei temi e degli obiettivi che abbiamo declinato con la carta.